Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Il 2008 si è chiuso con la spesa record annua per le bollette elettriche e del gas per le famiglie italiane. Lo dicono le associazioni dei consumatori, ma lo dicono anche i nostri portafogli e le bollette che ci arrivano a casa ogni bimestre. Ci saranno però presto i primi cali nelle tariffe che, grazie al netto calo del petrolio degli ultimi mesi, avranno una riduzione per il trimestre 1 gennaio 1 marzo del 5,1% per l'energia elettrica e dell'1% per il gas. L'autorità dell'energia calcola che questa percentuale si tradurrà, se consideriamo una famiglia tipo, in una diminuzione di 25 euro di spesa per l'energia elettrica e di 11 euro per il gas. E intanto però, per aggredire anche il quadro che lo scorso anno andava totalmente al contrario, con aumenti continui, molti nuclei familiari hanno deciso di accedere alle offerte del mercato libero. Il settore è stato infatti interessato alla liberalizzazione dal 1 luglio del 2007. Come sono andate le cose, quante famiglie si sono spostate verso le nuove opzioni e qual è stato il grado di adeguamento anche da parte degli operatori del mercato. Lo sapete, questo noi è un punto che facciamo costantemente e lo vogliamo fare in particolar modo in una fase come questa, in cui ovviamente ogni famiglia cerca ogni strada possibile per tenere sotto controllo il proprio budget familiare. Siccome la voce di spesa per gas ed energia è una voce considerevole del bilancio delle famiglie, è chiaro che mai come in questo momento ci interessa capire quali sono anche le opzioni per risparmiare. Chi saranno i nostri interlocutori di questa mattina, con i quali, come sempre, se vorrete, potrete interagire chiamandoci all'800 24 00 24. Abbiamo il dottor Massimo Ricci, direzione mercati dell'autorità del gas e dell'energia. Dottor Ricci, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Le avevo dato un'altra carica, mi scusi. E abbiamo poi invece con noi qui a Milano Marco Landoni, direttore marketing di Edison. Ben trovato, anzi, perché non è mai venuto a trovarci. Buongiorno. Grazie all'invito. Sì, mi accavallo questa mattina ai nostri interlocutori. E buongiorno invece al telefono a Simone Lonostro, anche in questo caso responsabile marketing vendite corporate di Enel. Benvenuto anche a lei. Buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde ve l'ho ricordato, ma come sapete potete anche scriverci alle 349 238 6666 i vostri messaggi sul tema di questa mattina. Raccontateci se avete cambiato operatore, se siete soddisfatti, oppure quali sono le vostre domande sull'argomento, se ancora l'opzione mercato libero non vi ha convinti. Il mercato questa mattina, dicevamo, è un mercato incerto. I listini, dopo i nuovi vistosi ribassi di ieri, hanno tentato di riaprire con un recupero, come sta accadendo da molte sedute a questa parte, un recupero che poi fallisce subito dopo qualche ora l'avvio delle contrattazioni. E infatti questo quadro si sta replicando di nuovo anche questa mattina. Parigi e Milano sono le piazze che hanno già virato in negativo, stanno resistendo, ma vedo già un deterioramento della situazione progressivo. Francoforte e Londra particolarmente sotto i riflettori per il nuovo terremoto che ieri ha investito il settore finanziario, con il crollo sotto il peso delle vendite di Royal Bank of Scotland. Il gruppo ha annunciato la perdita più importante della sua storia, una crisi senza precedenti che ha provocato il crollo del titolo del 66%. Oggi abbiamo un recupero modesto, più 10, ma è evidente appunto che la tensione intorno al settore continua, permane ed è anzi particolarmente forte. Milano perde lo 0,6%, le vendite riguardano ancora prevalentemente i titoli bancari, infatti Intesa San Paolo perde il 3,68%, l'Espresso meno 3, la Banca Popolare di Milano meno 2,96, UbiBanca meno 2,58, Unicredito meno 2,28. Già ieri il titolo si era portato ai suoi minimi storici, ai suoi minimi dal 1997, e anche oggi scivola sotto questa soglia. Fastweb meno 2, Banca Monte dei Paschi meno 1,82%. Resiste invece Terna più 2,80, anzi oggi adesso fa meglio Luxottica più 3%. È una buona giornata anche per Bulgari più 0,7. Il settore del lusso oggi sta beneficiando del recupero del dollaro sull'euro a 1,29,45. Abbiamo un rialzo anche di Finmeccanica del 2,59, il gruppo ha ricevuto un giudizio buy comprare di Merrill Lynch. Titoli sospesi dalle contrattazioni: Fiat, lo sappiamo, deve annunciare in tutta probabilità in giornata l'alleanza con Chrysler, e proprio Chrysler ha confermato poco fa la presenza di un accordo preliminare con il lingotto, che sarà completato dopo essere stato sottoposto alle previste approvazioni, recita appunto un comunicato, entro il mese di aprile. Lasciamo la borsa, andiamo invece subito al tema di questa mattina. Oggi ritorniamo a parlare di una voce che pesa in maniera abbastanza significativa nel bilancio delle famiglie italiane: quanto spendiamo di energia e gas. La bolletta dell'elettricità del 2008 è stata la più cara dagli anni 80. Gli italiani hanno speso in un anno oltre 470 euro in più rispetto a 10 anni fa, e solo negli ultimi 3 anni la spesa è aumentata di 120 euro, il 158% in più di quanto era cresciuta nei 7 anni precedenti. Questo è quanto emerge dall'Osservatorio Nazionale Tariffe e Servizi di Federconsumatori. E proprio ora che le tariffe sono in calo, tanto da spingere il governo a ritirare il paventato blocco per il 2009, la guerra del gas tra Russia e Ucraina ha fatto temere nuovi rincari. In questo scenario nessuno si azzarda a fare previsioni. Certo è, se il prezzo del petrolio dovesse continuare a scendere, che un calo più consistente dovrebbe arrivare ad aprile dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Chi invece lo sconto lo vuole subito ha un'altra alternativa. Da quando infatti a luglio 2007 il mercato dell'energia si è aperto alla libera concorrenza anche nel settore domestico, molte sono le offerte a disposizione dei consumatori. Dalla formula bioraria, che consente di risparmiare sui consumi serali e nel weekend, al blocco delle tariffe per 2 anni, a sconti sul costo dell'energia elettrica fissato dall'autorità. In questo caso però, va chiarito, lo sconto si riferisce solo alla voce energia del prezzo dell'elettricità, pari in media al 65% del costo complessivo pagato dal consumatore. La bolletta, infatti, comprende anche accise, tasse e oneri di vario genere. Infine, da segnalare il regime speciale che riguarda invece le famiglie disagiate o che necessitano per motivi di salute di macchinari energivori. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Ci sono alcuni ascoltatori che si lamentano per il fatto che abbiamo dato la dicitura sbagliata del nostro numero verde. Non ci risulta, però insomma magari staremo più attenti. In ogni caso, andiamo al tema di questa mattina. E allora io, come al solito, vi invito a raccontarci la vostra esperienza per vivacizzare la nostra trasmissione, ma soprattutto per cercare, come dire, anche di mettere in evidenza le problematiche se qualcosa non funziona in un ambito così delicato, perché come abbiamo detto ovviamente questa è una voce di spesa non indifferente per le famiglie italiane, quella per la corrente elettrica, quella per il gas. Allora cominciamo il nostro giro di chiacchiere con i nostri ospiti. Dottor Massimo Ricci, direzione mercati dell'autorità del gas e dell'energia, ancora buongiorno. L'ultima volta che abbiamo invitato l'autorità è stata lo scorso ottobre, e ci avevate fornito un nuovo bilancio su come era andata, no, l'adesione da parte delle famiglie italiane alle offerte del mercato libero. In 15 mesi il bilancio si era chiuso al 30 settembre 2008, erano stati circa 2 milioni di utenti fra famiglie e piccole imprese ad essere passate al mercato libero. Abbiamo dei dati più aggiornati, dottor Ricci? Ma guardi, in realtà quelli sono, diciamo, dati che sono ancora, diciamo, valgono ancora come riferimento. Diciamo che il tasso di crescita si è mantenuto, anzi si è incrementato negli ultimi mesi, proprio grazie al fatto che molte imprese hanno deciso di entrare in questo segmento di mercato, vivacizzando un pochino il mercato elettrico. Quindi diciamo che come tendenza è una tendenza che continua ad aumentare, insomma. Quindi però non abbiamo ancora una cifra che ci può dare la misura? No, perché purtroppo questi dati, abbiamo tutta una serie di rilevazioni e ci sono disponibili solo con qualche mese di ritardo, però dai dati che abbiamo sono in continua crescita. No, anche perché tra l'altro lei ci parlava della presenza progressiva di nuovi attori sul mercato con le proprie proposte, no, per quello che riguarda il mercato libero, le proposte da presentare alle famiglie, ma anche lì, da quando poi è partita la fase della liberalizzazione, ricordiamo la data 1 luglio 2007, non c'è stata come dire una proliferazione immediata di offerte sul mercato da parte degli attori. Poi racconteremo anche l'esperienza di Edison, che è arrivata molto di recente sul mercato con la propria proposta commerciale, ma anche lì gli operatori sono partiti, dottor Ricci, abbastanza tranquillamente, diciamolo pure in questa maniera. Beh, più che tranquillamente, diciamo che affrontare un mercato di 28 milioni di clienti finali richiede delle infrastrutture, un adeguamento, diciamo, anche di tutti i sistemi che gli operatori hanno, che quindi naturalmente richiede qualche mese anche per mettere a punto probabilmente le proprie strategie. Poi noi da questo punto di vista, diciamo, assistiamo un pochino come attori, però conoscendo le difficoltà di questo mercato, questi sono un po' gli elementi che ci immaginiamo essere alla base di questa, diciamo, se vogliamo, tasso di entrata nel mercato degli operatori, ma appunto abbiamo visto che recentemente tutti gli operatori di maggiore dimensione che già erano presenti nel mercato dei clienti industriali, sia piccole e medie imprese che grossi clienti industriali, sono poi entrati anche nel mercato dei clienti civili, la cui gestione anche commerciale ha delle caratteristiche, delle peculiarità molto molto diverse rispetto ai grossi clienti industriali. C'è anche tra l'altro un aspetto che forse, e qui dobbiamo fare anche un mea culpa come giornalisti, per quello che mi riguarda è un tema molto difficile da trattare, lo tratto con difficoltà esattamente come leggo le bollette peraltro, però molto spesso le famiglie non sanno che non è che aderire al mercato libero significa passare, non so, faccio un esempio perché li ho qua, da Enel a Edison, o al contrario, si può anche per esempio mantenere Enel e chiedere all'operatore di farci la propria offerta per il mercato libero. Simone Lo Nostro, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, mi sono sbagliata? No, corretto, infatti noi abbiamo spesso questo tipo di problema quando dobbiamo andare a veicolare le nostre offerte, riscontriamo, nonostante la nostra intensa comunicazione, un certo tipo di diffidenza nel pensare che passare con l'energia significhi sostanzialmente un salto nel buio. Diciamo che gli operatori in questo momento sono assolutamente affidabili, tutti quelli che sono presenti sul mercato e che sono buttati sul mercato residenziale, per cui la diffidenza che c'è nel passare dal mercato di maggior tutela al mercato libero, secondo me, dovrebbe essere un po' ridotta, bisognerebbe sgombrare un pochino dai dubbi la percezione della clientela. Ecco, per esempio, lei ha citato una questione fondamentale, il regime di maggior tutela. Io, per esempio, che non ho fatto la scelta di aderire a nessuna proposta commerciale per passare al mercato libero, sulla mia bolletta, per esempio, trovo proprio che sono una cliente per il quale l'autorità ha previsto un trattamento di questo tipo. Dottor Ricci, ci può spiegare in che cosa consiste? Sì, di fatto è un regime in cui viene comunque garantita sia ai clienti che non hanno ancora scelto il mercato libero, sia a coloro i quali l'hanno scelto e volessero, diciamo, per qualche motivo, o si trovassero per qualche motivo senza fornitore, viene comunque garantita una fornitura a condizioni determinate dall'autorità. Non sono condizioni, diciamo, di prezzo determinato arbitrariamente dall'autorità, ma l'autorità semplicemente determina un prezzo che si aggiorna sulla base delle condizioni di mercato a cui viene approvvigionata l'energia per questi clienti. E il servizio di maggior tutela è limitato ai clienti piccole e medie imprese in bassa tensione e ai clienti domestici. Marco Landoni, Edison, anche l'altra volta quando eravate stati ospiti nostri qui a Salvadanaio, avevo un po' come dire, descritto la vostra offerta come quella che aveva letteralmente spiazzato il mercato. È arrivata molto di recente, il 20% di sconto sul prezzo dell'energia, avevamo paragonato a quella che invece aveva proposto Eni, che era già un 10%. Io banalizzo molto la questione, poi magari lei ci dà qualche dettaglio. Tra l'altro è un'offerta che valeva solamente fino alla fine dello scorso anno, avete deciso però di prorogarla, perché? Assolutamente, le confermo che l'offerta che appunto è Edison Casa, che abbiamo portato a fine settembre sul mercato, è ancora tuttora sottoscrivibile. L'abbiamo deciso perché anche allora, quando avevamo messo quella data, era più che altro per capire se avevamo fatto bene, se stavamo veramente cogliendo quello che il mercato ci chiedeva. In realtà ci siamo accorti proprio in queste settimane che l'offerta è piaciuta, il messaggio che abbiamo dato è stato colto, decine di migliaia di clienti ci contattano e sottoscrivono, e quindi a nostro parere un'offerta che funziona, ci sta dando soddisfazione e non può scomparire dal mercato all'improvviso. Quanti clienti state sottraendo, posso dire, all'operatore storico ma anche agli altri? Come è andata fino a questo momento? Poi ovviamente la stessa domanda la facciamo anche ad Enel, allo nostro, sì. È andata bene, è andata secondo me anche oltre le nostre previsioni. Il numero preciso, così come tre mesi fa, era un po', diciamo, segreto, quantomeno un po' sensibile, quindi il numero non lo posso dare, però diciamo che veramente ci stiamo accorgendo del ritorno che stiamo avendo, ben oltre le nostre aspettative. Ben oltre le vostre aspettative. Simone Lo Nostro, invece, lei ci parlava prima, per quello che riguarda Enel, dell'offerta del mercato libero che si chiama Enel Energia. Tra l'altro era un'offerta che almeno fino a qualche mese fa continuava a puntare, a puntata a lungo sul prezzo bloccato, in uno scenario in cui invece adesso le tariffe tenderanno a scendere. Qual è il senso di fare dei prezzi bloccati? Ma diciamo che le tariffe continueranno a scendere, innanzitutto è un guess. È un'ipotesi che facciamo e che ci auguriamo succeda, ma è limitata probabilmente solo al 2009, quindi non vedrei la strategia di scommettere su un continuo ribasso del prezzo anche per il 2010 o per il 2011. Noi proponiamo dei prezzi che sono bloccati per un orizzonte temporale che è di 2 anni, conseguentemente non è detto che chiudere adesso un prezzo possa portare uno svantaggio sul lungo termine. Innanzitutto diciamo che chi ha chiuso con noi un prezzo nel 2007 ha oggi risparmiato già circa 70 euro all'anno e obiettivamente noi vendiamo, come dicevo già l'altra volta, una sicurezza di spesa e non una scommessa sull'andamento del petrolio. Il picco del petrolio di luglio e il collasso del petrolio di ottobre e novembre-dicembre ci ha dimostrato che sull'andamento del petrolio è difficile fare delle previsioni e non si può fare affidamento. È chiaro che la nostra è un'offerta che è destinata a clienti che hanno un certo tipo di filosofia. Ci sono poi invece clienti che hanno piacere o comunque pensano che il petrolio continuerà a diminuire, che possono benissimo beneficiare delle offerte fatte dai nostri concorrenti che invece vanno a sconto sulla tariffa e quindi, ancorandosi a un andamento del petrolio, consentono di risparmiare qualcosa. E questa insomma è la politica commerciale praticata da Enel e questi sono i suggerimenti che l'operatore dà per muoversi in una fase come questa. Per chi invece ha fatto la scelta del mercato libero e non l'ha fatta solamente in un'ottica di bloccare la tariffa, ma così anche per approfittare poi per tutte le questioni generali che magari un'adesione al mercato libero, quindi un'adesione ad una politica concorrenziale può dare, vedo che però ci sono alcune insoddisfazioni. Prima di tutto però non tanto le insoddisfazioni legate all'offerta quanto l'insoddisfazione preventiva. Non si riesce bene a capire come si possa costruire un profilo adeguato. Io per esempio, ma questo lo vedo in molti ascoltatori, non capendo niente della bolletta, è chiaro che faccio anche un po' fatica a capire non so quale potrebbe essere effettivamente poi l'offerta alternativa adeguata a me. Allora introduciamo subito questo tema con la domanda di Benedetto da Varese. Benedetto, buongiorno. Deborah, soliti complimenti eccetera eccetera, vengo al dunque. Sì. Io sono un utente abbastanza attento a tutto, ricariche eccetera, però effettivamente non riesco a capire qui il risparmio, sintetizzandolo ai minimi, come avviene. Da quello che ho capito, vorrei conferma dagli esperti, che c'è un prezzo di Enel stabilizzato dal governo. Dopo, quando Edison dice io faccio il 20% di sconto, è vero che fa il 20% di sconto in base a questo prezzo che attuano quasi tutti? Allora, Benedetto, un prezzo stabilizzato dal governo e l'autority del gas e dell'energia che decide il livello tariffario, però la sua considerazione, alla quale adesso faremo rispondere anche i due operatori che abbiamo invitato, si presta il fianco ad un altro tema, che è quello appunto della comparabilità dell'offerta, e credo che l'autorità del gas e dell'energia avesse in mente, vorrei chiedere al dottor Massimo Ricci a che punto è, il cosiddetto, lo diciamo all'inglese, poi lo traduciamo naturalmente in italiano, price calculator, che è proprio lo strumento per comparare l'offerta, inserendo magari i dati che mi riguardano, relativi soprattutto ai miei consumi, fatti e ipotetici per il futuro, l'autorità dovrebbe essere in grado di mettermi a disposizione uno strumento che mi dica guarda, questo è l'operatore giusto per te. L'ho detta in maniera un po' troppo grossolana, dottor Riccio, comunque l'obiettivo è questo. No, l'obiettivo è chiaramente quello, cioè quello di fornire. Chiaramente uno dei grossi problemi che ci sono, diciamo, delle tematiche importanti nell'avvio di un nuovo mercato è quello dell'informazione ai consumatori. Quindi l'autorità ha messo in campo nell'ultimo periodo una serie di iniziative in questo ambito di carattere informativo, proprio per consentire agli operatori una scelta consapevole. E quindi in particolare quello che lei citava è uno strumento che attraverso internet dovrebbe essere diciamo utile a tutti i consumatori, in particolare i consumatori di piccola dimensione, che di solito fanno fatica a orientarsi, in modo da avere un riferimento su cui trovare diverse offerte di riferimento e poterle anche comparare, soprattutto volta a conoscere le caratteristiche delle offerte e le differenze che ci possono essere. Lei citava un paio, o l'ascoltatore citava, mi sembra, un paio di offerte di tipo diverso, cioè alcune offerte sono caratterizzate da un prezzo che rimane costante durante un periodo predefinito nel contratto, altri prezzi sono viceversa fanno riferimento al prezzo determinato dall'autorità per il servizio di maggior tutela, che chiaramente lo possono fare perché, come dicevo prima, l'autorità non non è che determina un prezzo sulla base dei propri ragionamenti, ma fa dei calcoli sulla base dei prezzi di mercato, quindi gli operatori di mercato ben possono riferirsi anche a quelle condizioni, però è una scelta, ci può essere il consumatore che decide appunto di scegliere un prezzo che gli rimane costante o quello che preferisce un prezzo variabile, quindi diciamo, per orientarsi un po' in questo mondo, con questo obiettivo l'autorità sta predisponendo e credo che sia ormai questione di poco tempo a che questo strumento sarà disponibile per gli operatori. Allora, però adesso non so se abbiamo esaudito completamente le curiosità di Benedetto da Varese, ovviamente poi assegno anche le rispettive risposte ai due operatori che oggi abbiamo invitato. Eccoci di nuovo a Salvadanaio, ben ritrovati da Deborah Rosciani. Questa mattina siamo ritornati sulla nostra bolletta della luce, sulla nostra bolletta del gas, dopo averci fatto soffrire perché abbiamo visto le bollette lievitare notevolmente lo scorso anno a causa del prezzo del petrolio, che si è riflesso inevitabilmente anche su queste voci del nostro bilancio molto importanti. Quest'anno il trend dovrebbe essere un po' più virtuoso, sempre grazie al petrolio, che invece è in netta discesa. Le tariffe diminuiranno in questo trimestre del 5,1% per quello che riguarda l'energia elettrica e dell'1% per il gas, quindi insomma almeno 25 euro di spesa per una famiglia media di risparmio per l'energia elettrica, 11 euro per il gas. Speriamo che questa tendenza continui. In tutto questo ricordiamo che da un anno e mezzo a questa parte, anzi da quasi due anni, il mercato è stato interessato alla completa liberalizzazione e dunque gli operatori si sono attrezzati per ovviamente proporre alle famiglie italiane le proprie proposte commerciali per così aderire anche a questo nuovo regime. Come sono andate le cose? Non tutti gli ascoltatori che ci stanno chiamando questa mattina sono completamente soddisfatti del passaggio da un operatore ad un altro, probabilmente ci si aspettava risparmi più vistosi, ma devo dire che il terreno si gioca molto sulla trasparenza e ci sono molti ascoltatori che inevitabilmente si lamentano del fatto, ma questo credo che anche gli operatori siano perfettamente consapevoli, di fatture poco trasparenti, bollette incomprensibili e tutto questo non aiuta anche a fare un paragone tra la condizione attuale e quella che si potrebbe avere scegliendo un operatore diverso. Allora, per esempio, Andrea da Treviso si lamenta parecchio del suo passaggio. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi richiamato. Niente, io mi trovo, diciamo, in mezzo a una battaglia tra due compagnie. Io ero Enel, sono passato al mercato libero con Sorgenia e mi è arrivata la doppia bolletta, quindi doppia tassazione, quindi questo problema. Chiamato i reciprochi call center, non c'era soluzione. E quindi adesso io non so come fare, insomma, per uscirne. Ma guardi, credo che il nostro Simone, lo nostro, un gioco di parole, marketing Enel, sia molto interessato a quello che le sta accadendo. Però Andrea, magari rimanga in linea, così diamo anche al nostro interlocutore l'opportunità di risponderle con qualche particolare in più. Il problema è che le stanno arrivando le bollette del nuovo operatore, le continuano ad arrivare quelle del vecchio? Esatto, io ho pagato le bollette Enel fino a dicembre 2008 e da gennaio mi sono arrivate tre fatturazioni Sorgenia, ancora antecedenti periodo luglio-agosto fino a dicembre. È che probabilmente l'Enel non la vuole lasciare andare, Andrea, forse il problema è questo. Stia un attimo in linea. Dottor Lo Nostro, che cosa può essere capitato? Fate fatica a dialogare con questo operatore che ha citato Andrea? No, non facciamo fatica a dialogare con gli operatori, né siamo usi tenere i clienti che hanno firmato con altri operatori. C'è sicuramente nel gestire 29 milioni di clienti una qualche difficoltà informatica, per cui ogni tanto può capitare che su qualche cliente commettiamo degli errori, però se finita la trasmissione l'ascoltatore vuole lasciare i miei dati, mi preoccuperò personalmente. Non mancheremo di farlo, quindi di risolvere questo anche perché è un problema che si può risolvere tranquillamente, non ci sono problemi. Quando un cliente ci dà disdette e vuole andare con un altro operatore, lo lasciamo andare, a meno di queste incongruenze informatiche. Al contrario, invece, quando un soggetto che si è servito di un operatore diverso dal vostro fino a questo momento aderisce alla vostra offerta, Lo Nostro, in quanti tempi si attiva il nuovo piano tariffario? Poi lo chiedo anche ad Edison, perché questo ci interessa. Oltretutto voi state utilizzando notevolmente il canale internet proprio per aumentare poi la velocità dell'adesione alle nuove offerte. Allora, dal punto di vista teorico i tempi di attivazione sono dovrebbero essere mediamente di 45 giorni. Anche qui... Così tanto? Quelli sono tempi normativi, però. C'è un tempo normativo incomprimibile che adesso le cito testualmente. Sono 45 giorni lavorativi, immagino, per cui no, saranno. Diciamo, l'attivazione diventa valida dal primo giorno lavorativo del mese N+1, per adesso l'ho data la dicitura tecnica. Mm-hmm. Quindi se lei in teoria stipula un contratto con Enel Energia oggi, che è il 20 di gennaio, diventa operativo dal 1 di marzo. Io le ho detto 45 giorni perché sono i tempi medi, no? Perché c'è anche gente che ha attivato il contratto il 5 di gennaio, per cui comunque l'attivazione è sempre a partire dal 1 di marzo. Quelli sono tempi normativi definiti dall'autorità sulla base di quelle che sono le performance informatiche del sistema elettrico che deve gestire questi cosiddetti switch. Mm-hmm. Landoni di Edison, lo stesso vale per voi? Sì, i tempi sono, come diceva giustamente, sono quelli normativi. Quello di cui noi ci siamo accorti è che effettivamente, al di là del fatto che un cliente che firma oggi si attiva tra 45 giorni, in realtà prima di accorgersi effettivamente del beneficio di avere comunque cambiato fornitore, sostanzialmente deve aspettare anche che arrivi la prima bolletta, perché nulla cambia in casa, non cambia il contatore. Quindi noi abbiamo capito che c'è questo delay temporale molto ampio durante il quale il cliente ha bisogno di essere ricontattato e di avere delle indicazioni per capire come sta andando, se è tutto a posto. Stiamo lavorando per cercare di mettere in piedi anche un sistema di tracking proprio per dare la certezza al cliente che nel suo percorso sta andando esattamente come era previsto e che quindi tutto è a posto. Massimo Ricci, autorità del gas e dell'energia, non si può far niente per ridurre questo lasso temporale? Ma diciamo, questo lasso temporale da un lato è stato introdotto, come veniva detto prima giustamente, in considerazione della difficoltà di gestire dal punto di vista informatico questi passaggi di clienti da un fornitore all'altro, switching, e in particolare questa è la tempistica minima coerente con la gestione di questi switching all'inizio del mese, tra virgolette, nel senso che nel momento in cui si è deciso di gestire tutti gli switching contemporaneamente all'inizio del mese, anche perché creerebbe ulteriore, diciamo, incertezza potenzialmente il fatto che un cliente finale possa cambiare fornitore a metà del mese o durante il mese. In ogni caso, sicuramente con lo sviluppo del mercato verranno fatte anche delle valutazioni per diciamo, verificare di ridurre questi tempi. Non dimentichiamoci che lo switching non coinvolge soltanto il venditore entrante e quello uscente, quindi i due soggetti che gestiscono la vendita, ma anche gli operatori di sistema che devono registrare questo switching, questo passaggio di fornitura del cliente, in modo da poter contabilizzare correttamente l'energia elettrica e quindi attribuire correttamente le partite ai due operatori. Quindi sono quattro operatori che sono coinvolti in questo processo e, data la peculiarità dei sistemi a rete, quindi sia l'elettricità che il gas, richiedono una certa cautela anche per evitare quelle problematiche che l'ascoltatore segnalava in precedenza. Insomma, un meccanismo che non ci piace tanto, però quantomeno abbiamo spiegato che cosa succede ai nostri ascoltatori, che ne saranno almeno maggiormente consapevoli. Antonio da Genova, e tra l'altro c'è anche un altro ascoltatore di Genova, segno che sappiamo bene quella è una città che sta molto attenta a come si spende il denaro. Antonio ha un osservatorio eccezionale, un amministratore di condominio, se non sbaglio, ha stipulato tanti contratti, Antonio, e non è molto soddisfatto del passaggio al mercato libero? Assolutamente no. Perché? Io ho stipulato circa 300-350 contratti, prima con Enel Energia e adesso con Edison. Dopo un anno di disastri con Enel Energia, parlo di fatturazioni sbagliate, di invio documentazioni sbagliate, call center assolutamente inaffidabili, con i quali non si può parlare, sono passato a Edison. Sono passato a Edison perché mi avevano assicurato fatturazione bimestrale, come era prima con Enel Distribuzione, cosa che adesso a distanza di un anno non è ancora stato fatto. In più continuo ad avere grossissimi problemi di allineamento dei read bancari per l'addebito delle spese sul conto corrente della banca, nel senso che ormai io tutti i mesi devo mettermi lì a pagare 300 fatture con bonifico bancario, quindi con addebito di relative commissioni di spesa, quando prima io delle bollette dell'Enel in pratica me le dimenticavo perché venivano pagate automaticamente, non facevo altro che registrarle. Però, quindi insomma, problemi di grossissima fatturazione. Non voglio parlare di quelli che sono i risparmi, che sinceramente a questo punto è il problema minore, o comunque a me a questo punto non interessano, a me interessa che il servizio sia all'altezza della situazione. Del gran tempo, del mio tempo, che io faccio attività professionale dalla mattina alla sera e perdo del gran tempo per gestire queste situazioni. Mi avevano assicurato la fatturazione bimestrale, capite bene che 300 fatture che diventano 300 tutti i mesi, operazioni da fare a mano. lavorando, certo. Ovviamente raddoppiano il lavoro. Le risposte sono sempre molto, molto, diciamo, poco precise. Antonio, è stato più che sufficiente, non vorrei continuare a tormentare i nostri ospiti, a farli sudare, uno qua fisicamente con me e l'altro al telefono. Tra l'altro, finché si tratta di un caso isolato, di una persona che sta a Roma, un'altra che sta a Torino, un'altra che sta ad Ancona, per citare la mia città, possiamo anche capire che si tratti di eccezioni in un panorama di clientela estremamente ampio. Antonio però è, secondo me, un campione estremamente significativo. Allora io adesso mi sento i suggerimenti per chi è in viaggio, così faccio riflettere sia Enel e sullo scontento da parte di molti ascoltatori, e molti non ne facciamo intervenire, ma ne ho, sul funzionamento del call center, oltre che sulle problematiche legate alla fatturazione. Anzi, chiedo anche allo nostro di prepararsi a darci la differenza chiara fra Enel Energia ed Enel Distribuzione, che a molti ascoltatori non è per niente chiara, mentre poi per Edison ci deve spiegare come mai invece l'addebito automatico sul conto corrente della bolletta ancora non funziona nella maniera appunto corretta. Allora, abbiamo sentito il caso del nostro ascoltatore di Genova, Antonio, un amministratore di condominio che gestisce evidentemente per i suoi assistiti 300-350 famiglie, di cui ha stipulato nuovi contratti per passare al mercato libero. Allora, cominciamo con Edison e poi sentiremo anche lo nostro di Enel. E, insomma, un bel pacchetto di clienti nuovi Antonio vi voleva portare, però insomma le cose non funzionano perfettamente. Sì, effettivamente raccolgo. Non è molto contento, dottor Landoni di Edison. L'ho chiamata sempre Landone con la finale per tutta la puntata, peraltro. No, non mi sono accorto. Benissimo, no. D'accordo. No, raccolgo un po' il grido d'allarme, ovviamente, del cliente. Non posso che cercare di dare una spiegazione. Ovviamente, il caso dei condomini poi è un caso un po' particolare, soprattutto sull'allineamento della RID, per problemi anche di, diciamo, di intestazione del contratto rispetto all'intestazione dei diversi condomini. Però questo non toglie che ci possa essere stato un disguido nel caso specifico e sul quale dovremo sicuramente lavorare per migliorare. Questi sono anche un po', diciamo, quei problemi di gioventù che una società che è appena partita si trova già a gestire tanti clienti magari può avere. Non è una giustificazione, l'unica buona notizia che porto è che la fattura bimestrale è pronta e quindi sostanzialmente almeno quello dovremmo risolvere. Che è il punto su cui poi ha focalizzato l'attenzione il nostro ascoltatore. Antonio, resista ancora un po' e vediamo poi se il servizio verrà migliorato, ma noi le rinvitiamo di nuovo e quindi ovviamente poi ricontattiamo anche lei per farci raccontare il punto della situazione. Detto questo, Simone, lo nostro, allora, molte lamentere sul call center di Enel Energia che non va? Ma noi diciamo che tendenzialmente monitoriamo il nostro call center, abbiamo sicuramente delle cose da migliorare diciamo rispetto soprattutto a quante sono le attese dei clienti. Stiamo investendo pesantemente sul nostro call center e chiaramente il mercato libero è un mercato abbastanza acerbo perché si è liberalizzato dal 2007. Per fornire un servizio di qualità ai clienti occorre imparare a fornire un servizio di qualità, investire in sistemi informatici e un po' di tempo per addestrare questi sistemi informatici. Quindi quantomeno stiamo vedendo un trend che è in miglioramento rispetto al luglio del 2007 a oggi. Esistono sicuramente delle nicchie di miglioramento e degli errori che facciamo, stiamo cercando di risolverli anche grazie sia alle segnalazioni che ci fanno i clienti sia dei nostri sondaggi interni, per cui con delle telefonate pilota cerchiamo di capire cosa possiamo migliorare nel nostro servizio. Ecco, ci fa invece capire esattamente qual è la differenza fra Enel Distribuzione e Enel Energia, che in realtà è il punto dal quale siamo partiti, no? All'inizio, spiegando ai nostri ascoltatori che molto spesso non è necessario cambiare operatore e passare ad un altro per aderire all'offerta del mercato libero, si può tranquillamente mantenere il proprio, e il vostro proprio è nell'energia. Però molti ascoltatori lamentano anche il fatto che in realtà rispetto a prima un grande risparmio non l'hanno trovato, anche se lei prima citava questi 70 euro, soprattutto perché ha bloccato le tariffe nel 2007. 70 euro quantificati per che profilo, dottor Lo Nostro? Ma noi facciamo sempre delle simulazioni che sono quelle che ci chiede di fare l'autorità, quindi per un cliente che consuma circa 2700 kWh all'anno. E in ogni caso la distinzione che lei mi chiede, aggiungerei un altro operatore che è quello che probabilmente molti conoscono, è la cosiddetta Enel Servizio Elettrico, perché nella realtà Enel Distribuzione ormai si occupa di fare il servizio proprio di distribuzione, cioè di trasporto dell'energia elettrica dalla produzione all'utente finale, al cliente finale, mi faccia dire. E poi ci sono due operatori che si occupano invece dei servizi di vendita vera e propria, che sono Enel Servizio Elettrico per i clienti che sono rimasti sulla maggior tutela di cui parlavamo prima, ed Enel Energia per i clienti che hanno deciso di optare per il mercato libero. Aggiungo che il risparmio, innanzitutto lo possiamo misurare da diverse latitudini, diciamo, da diversi punti di vista. C'è un risparmio in bolletta e va bene, quello è abbastanza chiaro. C'è anche un risparmio in qualità del servizio che andando a migliorare ridurrà i tempi di attesa, ma c'è anche un risparmio che noi mettiamo a disposizione dei nostri clienti che è legato ad esempio ai concorsi a premi. Noi abbiamo stimato Lì volevo arrivare, perché larga parte del risparmio è legato a questo. Esatto. È facile anche individuare che il nostro concorso a premi dà la possibilità ai nostri clienti, sfruttando banalmente il potere di acquisto dell'Enel, che è sicuramente superiore a quello del singolo cliente, di avere dei risparmi su quelle che sono le spese generiche in elettrodomestici piuttosto che comunicazione e quant'altro, che può arrivare da un minimo di 350 a un massimo di 750 euro l'anno, quindi assolutamente di un ordine di grandezza superiore a quelli che sono i risparmi classici che si possono avere semplicemente sulla bolletta. Allora, noi prendiamo atto insomma anche dell'esistenza del concorso a premi, che in qualche maniera sicuramente attrae molti consumatori, ma bisogna che si sappia anche con grande trasparenza sin dall'inizio che si possono ottenere dei risparmi significativi, magari per certi profili tariffari, anche attraverso questa via. Vi dico intanto che è stato firmato il preliminare d'accordo fra la Fiat e la Chrysler, era la comunicazione che da Borsa Italiana ci attendevamo, visto che oggi sono congelati i titoli del lingotto, quindi è stato confermato quello che era su tutti i giornali questa mattina. Detto questo, mi sposto di nuovo a Marco Landoni di Edison, che invece non è un grande sostenitore. Fate anche voi concorsi a premi per permettere ai consumatori di risparmiare? Guardi, per dire la verità, già le fatture sono complesse e tutto, io direi che abbiamo preferito fare una cosa, dare semplice. Un risparmio in soldi, poi sinceramente il cliente può è libero di impegnare il risparmio che ha ottenuto come vuole, ed è più semplice, lo vede subito in bolletta, è immediato, è garantito. Ma a parte, voglio dire, l'aspetto folcloristico del risparmio legato ad un concorso interno, che può anche stare per un operatore storico come Enel, lei mi sembra non fosse invece un grande sostenitore del blocco delle tariffe. Ma anche qui è una filosofia un po' diversa, come si diceva prima, sono due strutture d'offerta molto diverse. Da una parte si ha il blocco della tariffa per 2 anni, di una parte della tariffa, ovviamente la componente energia, dall'altra si ottiene uno sconto rispetto alle tariffe del tutelato. Io ritorno sempre al concetto della semplicità. Oggi veramente per un cliente è difficile capire come fate la propria bolletta sul mercato tutelato. Io non so se si abbia poi la grande capacità di andare a capire come andrà lo scenario dei prossimi anni, fare delle analisi per capire qual è il proprio risparmio e poi scoprire fra 2 anni se si è risparmiato o quanto si è risparmiato. Noi abbiamo fatto una scelta diversa. Abbiamo voluto far vedere ai clienti da subito uno sconto garantito, quindi chi compra Edison Casa non avrà mai la sorpresa di aver pagato di più di quello che avrebbe pagato sul mercato tutelato. Questa è la scelta che abbiamo fatto. E vabbè, insomma, la concorrenza è fatta anche per questo. Ognuno fa la scelta che ritiene più opportuna. Massimo da Verona. Sì, buongiorno. Cosa le è successo? Grazie. Niente. Io semplicemente ero cliente Enel e poi dalla proposta di un agente Enel Energia ho aderito a Enel Energia. E sono passato da bollette bimestrali di 88-90 euro al bimestre a una bolletta di 450 euro. Ah, però! E ho chiesto bel salto perché di qualità, Massimo! Esatto. E ho chiesto perché di quella bolletta. E il call center mi ha risposto che loro fatturano in anticipo e poi io deve conguagliare. Vado a scalare. Allora ho detto che io non mi trovavo per questioni economiche cioè fronteggiare una spesa iniziale così alta. E ho chiesto la disdetta. La disdetta mi è arrivata la risposta che sarebbe arrivata dopo 150 giorni per motivi contrattuali. E passati 150 giorni ero convinto di essere ritornato normalmente come prima, solo che ho visto dagli estratti conti che continuavano il RID del pagamento di energia del fisso di 20 euro al bimestre. Guardi, Massimo, abbiamo capito il nocciolo del problema. Ecco, Simone, lo nostro da 88 euro a 450 perché ritenete di far pagare in anticipo e poi vi congogliamo in futuro, però non è che sia proprio il massimo. Lo nostro. C'è stato un palese errore dell'operatore del call center, né risulta che siano 150 giorni, i giorni entro i quali si ottiene la disdetta. Se è un cliente residenziale, i giorni entro i quali si ottiene la disdetta sono 30. Quindi evidentemente anche qui dovremo correggere i dati dell'ascoltatore, la situazione, perché non è una situazione. Facciamo scrivere allora a Massimo. Non è proprio una prassi aziendale quella di fatturare in acconto e poi scalare i consumi, perché non ci sì, diciamo che si fa generalmente, per chi non fa l'autolettura, l'operatore è la cosa classica che fa, che fa la lettura presunta, dopodiché io per esempio sono attenta e generalmente comunico i miei consumi. Per chi non lo fa, comunque c'è un conguaglio annuale, l'operatore viene a fare la lettura, quindi molto banalmente poi le cose funzionino così. Un pagamento in anticipo anche a noi sembra assurdo che possa avvenire secondo questa dinamica. Massimo da Verona ci scriva, che così magari diamo un'occhiata un po' più attenta al suo caso. Io però non ho più tempo, allora do la parola di chiusura a Massimo Ricci dell'Autorità del Gas e dell'Energia. Sono stati fatti tanti passi avanti per quello che riguarda il mercato libero, non abbiamo potuto parlare neanche della tariffa sociale. Detto questo però, insomma, sentito anche un po' ancora le problematiche che riguardano il settore, che cosa farà l'Authority per migliorare gli standard di trasparenza dell'offerta, perché mi sembra che questo sia il terreno da perseguire, dottor Ricci? Sì, diciamo, possiamo individuare almeno due o tre filoni su cui l'autorità si è impegnata dall'avvio della liberalizzazione, ma in particolare dal luglio 2007, quando c'è stata la... Le chiedo di sintetizzare al massimo perché sto chiudendo, grazie. In estrema sintesi, uno è quello che dicevo prima sotto il profilo informativo, la massima informazione delle opportunità che il cliente può avere; l'altro è quello del miglioramento sotto il profilo tecnico di tutti i flussi informativi tra gli operatori, per fare in maniera da minimizzare la probabilità di alcuni degli eventi che abbiamo sentito prima, e dopodiché anche tutta una serie di altre azioni che sono volte proprio sul mercato a monte, per garantire comunque che il mercato funzioni in maniera efficiente, che quindi mi sembra il suo che ci sia sul cliente finale ancora sia... un po' di strada da fare, questo credo che lo dobbiamo riconoscere un po' tutti. Grazie a tutti, a domani.